24, i gialli della storia. Ho sempre avuto un profondo rispetto per Henry Kissinger, per la sua cultura, la sua storia e la sua visione. Un uomo intelligente, affascinante e di ottima compagnia. Mi piace, lo rispetto. Ha cambiato le nostre vite. La mia personale opinione è che se dovessimo giudicare Kissinger ed altri leader politici secondo i canoni che abbiamo applicato ai governanti della Germania e del Giappone dopo la Seconda Guerra Mondiale, allora sì, Kissinger dovrebbe essere processato da una corte internazionale americana o di qualche altro paese. Kissinger è un uomo di straordinaria intelligenza e il suo errore è stato quello di agire senza alcun controllo da parte dell'opinione pubblica. Su Harper's Magazine è apparso un articolo, Processo ad Henry Kissinger, la costruzione di un criminale di guerra. Il dottor Kissinger è forse oggi uno dei maggiori esperti in materia, in America e nel mondo. Lo ritengo un bugiardo. Oggi a Mix 24 racconteremo la storia di Henry Kissinger, il potente e controverso ex segretario di Stato americano. Sicuramente uno degli uomini politici più importanti del XX secolo. Nobel per la pace nel 73, è però anche considerato responsabile di una gestione politica alle soglie della legalità. Dopo l'arresto di Pinochet a Londra nel 98, il governo americano decide di rendere pubblici alcuni documenti fino a quel momento segretati che provano il coinvolgimento americano nella repressione in Cina. Parte da quel momento in maniera più decisa una campagna contro Kissinger, anche a seguito alla pubblicazione di un libro di denuncia del giornalista Christopher Hitchens. Nel libro Processo a Kissinger sono sostenuti alcuni capi d'accusa che dovrebbero, secondo il giornalista, portare l'ex segretario di Stato alla sbarra degli imputati. Ma vediamo quali sono le accuse contro di lui. La gestione della guerra in Vietnam. Il principale obiettivo della nostra politica estera è porre fine alla guerra in Vietnam. L'attacco al Vietnam del Nord che Kissinger pianificava già dal settembre del 69 doveva essere di una violenza brutale. Bombardarono il Vietnam del Nord solo per dimostrare al Sud che potevano farlo. Un bombardamento dimostrativo. Pubbliche relazioni tramite un omicidio di massa dal cielo. Furono sganciate tante bombe quante quelle usate contro il Giappone in tutta la Seconda Guerra Mondiale. L'attacco militare alla Cambogia. Kissinger chiese di trovare il modo di nascondere i bombardamenti affinché nessuno sapesse. Selezionava personalmente i villaggi e gli insediamenti da bombardare. Con le forze armate del Vietnam del Sud, nelle prossime settimane attaccheremo i principali santuari nemici lungo il confine cambogiano-vietnamita. In modo illegale, ma perfetto. La collaborazione nell'invasione di Timor Est da parte dell'Indonesia. Capì che il mio governo era seriamente coinvolto in ciò che stava succedendo a Timor Est. Prevenire uno stato comunista nel cuore dell'Indonesia non è autodifesa? Stavamo fornendo armamenti, elicotteri, supporto logistico, tutto ciò che serviva agli indonesiani per questa guerra. La gente di Timor Est si chiede perché gli indonesiani ci invadono. Quando si seppe il numero delle vittime, al Dipartimento di Stato si diffuse il panico. Il coinvolgimento americano nel golpe di Stato contro Salvador Allende in Cile. Perché restare a guardare un paese che scivola verso il comunismo per colpa del suo popolo? Io credo davvero che quella in Cile sia stata la più meschina e abietta delle operazioni. Il generale René Schneider era visto come il principale ostacolo al golpe militare. Fu deciso che Schneider doveva sparire. Mio padre uscì di casa intorno alle 8 della mattina. Fermarono l'auto e gli spararono. Kissinger avrebbe coscientemente sacrificato migliaia di vite umane per la politica estera e gli interessi economici degli Stati Uniti. Raccontiamo questa storia con le testimonianze dei collaboratori più stretti e dei giornalisti che hanno seguito la vicenda. Il giorno in cui la polizia inglese, un corpo dello Stato, si è presentata da Augusto Pinochet, informandolo che era agli arresti domiciliari, ha segnato una vittoria perché crede nella difesa dei diritti umani di tutti i popoli. Michael Tiger è un noto avvocato che si interessa da tempo ai diritti umani e all'universalità dei canoni della giustizia. Questa è la premessa. La domanda successiva è chi perseguire? Tiger pensa che Henry Kissinger abbia tutti i motivi per temere le conseguenze dell'arresto di Pinochet a Londra. Questo magistrato era un ottimo amico di Margaret Thatcher. Tutti si aspettavano che avrebbe ricusato la richiesta. Invece ha scritto Un mondo, una legge. Il momento più emozionante dell'arresto di Pinochet è stato leggere il rapporto dell'agente di Scotland Yard. Mi è stato consegnato il mandato e mi sono recato al domicilio. Alle 11.30 mi è stato aperto. Sono entrato e ho girato a destra. Poi sono entrato in una stanza e ho riconosciuto il detenuto. Il detenuto, non è straordinario, il detenuto. Mi sono avvicinato e gli ho detto, Augusto Pinochet Ugarte, lei è in arresto per i reati di cospirazione e tortura. E a quel punto ho pensato, preso. La reazione di Kissinger naturalmente non si fa attendere. Christopher Hitchens, come lei sa, ha pubblicato un nuovo libro, Il processo a Henry Kissinger. Ci va giù duro, è un'esplicita accusa nei suoi confronti. Non voglio avere nulla a che fare con Christopher Hitchens. Quest'uomo ha infangato Madre Teresa, Jackie Kennedy, ha negato l'Olocausto. Non gli farò il favore di considerarlo un interlocutore. Gli estimatori di Kissinger ne sottolineano l'operato nelle relazioni internazionali. Durante la Guerra Fredda, egli ha interpretato la diplomazia come la ricerca dell'equilibrio tra le superpotenze. Il suo più grande risultato è stato la diplomazia triangolare. Kissinger ha utilizzato il rapporto con la Cina in funzione antisovietica, conservando all'America un ruolo centrale anche dopo il Vietnam ed evitandone il declino. I critici però rinfacciano a Kissinger una strategia che prescinde dai costi umani. Ma per cominciare, chi è Henry Kissinger? Nato a Furt, in Germania, nel 1923, Henry Kissinger ha solo 10 anni quando i nazisti prendono il potere. 1938. La famiglia Kissinger emigra negli Stati Uniti e si stabilisce a New York. Henry ha 15 anni. Nel 1944 Kissinger torna in Germania. Stavolta però indossa una divisa americana. Dopo la guerra, Kissinger viene ammesso ad Harvard. Sia da studente che da professore comincia a farsi apprezzare per gli studi di politica estera. Il talento di Kissinger per le relazioni internazionali attira l'attenzione di Nelson Rockefeller, politico repubblicano, erede di una delle più ricche famiglie d'America. 1968. Quando Rockefeller si propone come candidato repubblicano alla presidenza, Kissinger capisce che è il momento di lasciare l'università per il vero centro del potere, Washington. Rockefeller però perde la nomination. Il candidato è Richard Nixon. A Parigi, intanto, i rappresentanti dell'amministrazione Johnson aprono le trattative con i nordvietnamiti per porre fine alla guerra. Kissinger è tra i consiglieri dei negoziatori. Ha dunque accesso a informazioni riservate. Kissinger informa lo staff di Nixon che i delegati americani stanno per raggiungere un accordo con i nordvietnamiti. Johnson deve tenere all'oscuro i sudvietnamiti. Nixon, intanto, avvia subito dei contatti segreti con il presidente sudvietnamita Thieu. A soli 3 giorni dalle elezioni, il presidente Thieu sfida Johnson, rifiutando di partecipare ai negoziati di pace. Senza il Vietnam del Sud, i colloqui di pace si arenano. Nixon vince le elezioni con meno dell'1% di scarto. A questo punto Kissinger entra nell'amministrazione Nixon con la qualifica di assistente del presidente per la sicurezza e gli affari internazionali. Non conoscevo Nixon quando mi nominò consigliere per la sicurezza nazionale. Nelle precedenti 3 primarie presidenziali avevo sostenuto il governatore Rockefeller contro di lui. Se studiate con quanta attenzione ho tessuto la mia tela per arrivare a Nixon e volete insegnarlo ai vostri figli, la morale è: sostieni l'avversario dell'uomo per cui vuoi lavorare. Kissinger chiede a un professore di Harvard, Roger Morris, di far parte del Consiglio per la Sicurezza Nazionale. Nixon tracciava le linee generali della politica estera americana, ma in realtà a guidare la macchina era Kissinger. Era lui l'architetto, il principale consigliere politico e soprattutto aveva un legame preferenziale con il Pentagono, i capi di Stato Maggiore e la CIA. Controllava sia la politica estera che la difesa. Il principale obiettivo della nostra politica estera è porre fine alla guerra in Vietnam. In pubblico, Nixon rinnova lo slogan elettorale della onorevole conclusione della guerra. In privato, però, è d'accordo con Kissinger che la pace migliore si ottiene con la forza. La messa a punto di una fine onorevole o dignitosa della guerra credo non avesse nulla a che fare con l'onore e la dignità. Era in gioco la credibilità dell'America, in un faccia a faccia con i sovietici e in prospettiva con i cinesi. Kissinger era preoccupato, come Nixon, che gli Stati Uniti non apparissero deboli, irrisoluti o esitanti. Per ottenere una pace onorevole, Nixon e Kissinger vogliono dimostrare ad Hanoi che il nuovo presidente è pronto a usare tutta la forza necessaria per proseguire la guerra. È la cosiddetta teoria del pazzo. A meno di un mese dal giuramento, Nixon e Kissinger cominciano a pianificare un attacco contro i santuari della guerriglia vietnamita nella vicina Cambogia. Con la storia politica di Henry Kissinger continuiamo dopo la viabilità. Grandi cambiamenti in vista? Scegli Gondrand Traslochi per il tuo trasloco internazionale. Gondrand.it vi presenta. Mix 24, i gialli della storia. Bentornati all'ascolto di Mix 24. Stiamo raccontando di Kissinger e di come pensa di far uscire dalla guerra del Vietnam gli Stati Uniti d'America. La prima strada percorsa prevede un attacco alle basi vietnamite in Cambogia. Lo racconta il giornalista William Swarcross. Gli americani cominciano a bombardare la Cambogia nel 1969, poco dopo l'insediamento di Nixon, perché quel paese era un problema. Intere aree della Cambogia orientale, un paese in teoria neutrale rispetto al Vietnam del Nord e del Sud, erano di fatto sotto il controllo dei comunisti vietnamiti, che le usavano come rifugi e basi da cui lanciare attacchi contro le forze sud vietnamite e l'esercito americano nel sud del Vietnam. Emersero subito problemi di ogni tipo. Condurre una guerra segreta in un paese neutrale implicava distruggere qualsiasi atto ufficiale o nasconderlo alla perfezione, in pratica mentire. Il bombardamento della Cambogia è un atto di guerra. Secondo la Costituzione americana, il presidente da solo non può autorizzarlo. Serve l'approvazione del Congresso, ma Nixon e Kissinger pensano che il Congresso non approverà mai un allargamento della guerra anche alla Cambogia. Per Henry Kissinger allora è arrivato il momento di sporcarsi le mani. Kissinger approva un piano per cancellare le missioni dei bombardieri in Cambogia dai registri militari. Secondo il sistema di registrazione automatico, al momento del decollo ai piloti dei B-52 sono assegnati obiettivi nel Vietnam del Sud. La rotta viene poi modificata. Dalle stazioni radar i B-52 vengono guidati verso la Cambogia. Al ritorno, i piloti avrebbero dovuto confermare la versione dei bombardamenti sul Vietnam del Sud. La Cambogia non sarebbe mai apparsa nei rapporti. A una settimana dai primi bombardamenti sulla Cambogia, sulla stampa filtrano le prime notizie sulle operazioni. Kissinger chiede all'FBI di ricorrere alle intercettazioni telefoniche per scoprire le talpe. Con Nixon e Kissinger, insomma, la Casa Bianca diventa il luogo del sospetto, della diffidenza e delle intercettazioni. Di lì a pochi anni saremo in pieno Watergate. Per il momento, però, mentre Kissinger si occupa personalmente dei bombardamenti sulla Cambogia in America, costruisce con molta abilità la sua immagine pubblica. Nixon è un presidente austero, complessato, ha molto a disagio nei rapporti interpersonali. Kissinger invece sembra un maestro nei rapporti con i mass media e anche con i mass media che lo criticano. La strategia di Nixon e Kissinger per il Vietnam è ancora imperniata sulla Cambogia. I bombardamenti segreti però non solo non hanno distrutto i santuari della guerriglia, ma hanno favorito un'alleanza tra i comunisti cambogiani e i nord vietnamiti. Il principe Sihanouk, l'unica autorità in grado di tenere unito il paese, viene deposto da un colpo di Stato sostenuto dalla CIA. Pur negando il coinvolgimento della CIA, Kissinger e Nixon offrono il loro sostegno al leader dei golpisti Lon Nol, che attacca immediatamente le basi della guerriglia. I nordvietnamiti reagiscono penetrando ancora più in profondità in Cambogia. Nixon decide di invadere la Cambogia. È un avvertimento al Vietnam del Nord. Pochi giorni prima dell'invasione fa arrivare a Kissinger questo messaggio. Il presidente vuole che tu sappia che se non funziona sarà la tua poltrona a saltare. Kissinger commenta: il nostro impareggiabile comandante è fuori di sé. E mette in pratica l'opzione militare, sostenendo che servirà a far paura al Vietnam del Nord. La situazione è delicata, l'opinione pubblica è decisamente ostile a questa nuova iniziativa. Ma sentiamo la testimonianza di Roger Mollis, collaboratore di Kissinger. Decisi di dimettermi dal Consiglio per la Sicurezza Nazionale, insieme a Tony Lake e Bill Watts. Ritenevo che l'invasione della Cambogia fosse un tradire l'impegno assunto dal presidente perché si arrivasse a una pace onorevole e giusta in Vietnam. Avevo partecipato ai negoziati e sapevo che quella pace era alla nostra portata. Sapevo che l'altra parte era pronta ad accettare le condizioni e che l'invasione della Cambogia avrebbe portato devastazioni per anni e anni. E sarebbe costata decine di migliaia di vite americane e centinaia di migliaia di vite vietnamite. Ma le dimissioni dei suoi più stretti collaboratori non fermano Henry Kissinger. La sua tattica finora sembra aver fallito. Né i bombardamenti sulla Cambogia, né il colpo di Stato per deporre il principe cambogiano Sihanouk hanno prodotto alcun esito positivo per la guerra. Dunque è il momento di cambiare la politica. Il 30 aprile del 1970 gli Stati Uniti invadono la Cambogia. Maggio 1970. La notizia dell'invasione si diffonde negli Stati Uniti. Vengono occupate quasi 500 università americane. 4 maggio. La Guardia Nazionale apre il fuoco contro gli studenti alla Kent State University. Muoiono 4 giovani. Mentre Nixon si impegna pubblicamente per un rapido ritiro dalla Cambogia, Kissinger studia come costringere alla resa il Vietnam del Nord. Dicembre 1972. Per 11 giorni, 129 B-52 sganciano su Hanoi e Haiphong 40.000 tonnellate di bombe, colpendo un ospedale e altri centri abitati. L'operazione passa alla storia come il bombardamento di Natale. In pochi sanno che 2 mesi prima Kissinger ha raggiunto un accordo di pace con il Vietnam del Nord. Ma il presidente del Vietnam del Sud, l'uomo che aveva mandato a monte i negoziati del 68, non accetta l'accordo senza la prova che gli americani manterranno i patti. Il bombardamento di Natale era più un segnale al Vietnam del Sud che a quello del Nord. Una concessione al regime di Thieu e al Vietnam del Sud. Gli Stati Uniti erano pronti a dare un ultimo colpo mortale al Nord. Parigi, gennaio 1973. Kissinger sottoscrive la pace con Le Duc Tho, mediatore per il Nord Vietnam. I termini dell'accordo sono in sostanza gli stessi sui quali l'amministrazione Johnson aveva quasi raggiunto l'accordo nel 1968. 1973. Henry Kissinger e Le Duc Tho vincono il premio Nobel per la pace. Quando riceverò il premio insieme con il mio interlocutore nei colloqui di pace per il Vietnam, il signor Le Duc Tho segnerà la fine delle angosce e delle sofferenze per il Vietnam. Ma Kissinger si troverà in forte imbarazzo. Le Duc Tho non parteciperà alla cerimonia di Oslo. Trovai grottesco che assegnassero a lui un premio per la pace. Kissinger era un guerrafondaio, non certo un uomo di pace. Sembra la fine dell'intervento militare degli Stati Uniti nel sud-est asiatico, ma non è così. Nixon e Kissinger devono trasformare la disfatta in Vietnam in una pace onorevole e allora decidono di difendere il regime anticomunista in Cambogia dagli attacchi congiunti dei nordvietnamiti e dei Khmer Rossi. Ma ancora una volta Nixon e Kissinger colpiscono la Cambogia senza l'approvazione del Congresso americano. La missione deve restare segreta. L'ambasciata americana a Phnom Penh diventa la cabina di regia degli attacchi aerei contro le forze comuniste. L'aviazione americana ebbe mano libera. Non si potevano colpire il Laos e il Vietnam. Così iniziò una serie di bombardamenti sulla Cambogia. Furono sganciate tante bombe quante quelle usate contro il Giappone in tutta la Seconda Guerra Mondiale. Elizabeth Becker è stata corrispondente di guerra in Cambogia dal 72 al 74. Riuscimmo ad ascoltare le comunicazioni tra i piloti in volo e l'ambasciata americana che dirigeva gli attacchi, violando qualsiasi legge internazionale. Non riuscivamo a capire. Stavano facendo un numero enorme di vittime civili. Perché si colpivano tutti quei villaggi? Era il modo più orrendo di combattere una guerra. Con la storia di Henry Kissinger ripartiamo dopo la pubblicità. Mix 24, i gialli della storia. Siete ancora all'ascolto di Mix 24. Stiamo raccontando la storia di Kissinger, le sue attività politiche legate all'amministrazione Nixon. Il 17 giugno del 72 un gruppo di scassinatori viene scoperto negli uffici del Partito Democratico del Watergate. Quegli uomini, si scoprirà successivamente, sono direttamente legati alla Casa Bianca. Nixon è convinto che in quegli uffici vengano conservate le prove delle sue menzogne relative alla Cambogia. È l'inizio di uno scandalo che travolgerà la Casa Bianca. Ancora il giornalista William Schwarzkopf. E poi le considerazioni di Christopher Hitchens e Seymour Hersh. Luglio 1973. Le intercettazioni telefoniche volute dallo stesso Nixon portano alla scoperta del caso Watergate e all'incriminazione di membri dello staff della Casa Bianca. Per Nixon è la fine della sua presidenza. Per coprire le bugie raccontate sulla Cambogia si impiegarono i cosiddetti idraulici, una squadra di agenti segreti alle dirette dipendenze della Casa Bianca, che poi avrebbero provocato il Watergate e la caduta di Nixon. La rovina di Nixon iniziò con il bombardamento della Cambogia. Agosto 1974. Per sfuggire all'impeachment, Nixon si dimette. Uno dei capi d'accusa riguarda proprio l'aver nascosto i bombardamenti cambogiani al Congresso. Con le dimissioni il procedimento si interrompe e così le indagini. Il nuovo presidente Gerald Ford conferma Kissinger nella carica di segretario di Stato e perdona ufficialmente Richard Nixon. Nixon riesce a patteggiare una resa risonorevole e accetta il perdono presidenziale. Il capro espiatorio fu il suo ministro della giustizia ed ex capo del comitato elettorale, John Mitchell, il primo ministro della giustizia americano finito in prigione. Molti membri dello staff di Nixon erano a conoscenza degli atti illegali, ma solo uno dei responsabili di questi reati è ancora vivo. Siamo felici di questa partecipazione così vasta a un incontro istruttivo e speriamo ricco di sorprese con l'ospite di questa sera, il dottor Kissinger. Vorrei porre l'accento sul fatto che sono stato per un periodo sia consigliere per la sicurezza nazionale che segretario di Stato. Voglio ricordarlo perché i rapporti tra la Casa Bianca e il Dipartimento di Stato, prima di allora e dopo di allora, non sono mai stati così armoniosi come in quei giorni. Kissinger ha scritto una biografia in tre volumi, divenuta un bestseller. I suoi atti ufficiali, tuttavia, oggi custoditi nella biblioteca del Congresso, potranno essere consultati solo 5 anni dopo la sua morte. La segretazione degli atti fu una cosa giusta? Kissinger, vietandone la consultazione, ha ritardato la comprensione del suo operato? Certo che no. È stato solo il gesto di un uomo che non ha avuto il coraggio di rendere noti i documenti della sua azione di governo fin tanto che è in vita. Dallo scandalo del Watergate, Kissinger è l'unico a salvarsi. Sarà segretario di Stato anche con l'amministrazione Ford. Ma per gli Stati Uniti, nel sud-est asiatico, si apre una nuova crisi. Nell'isola di Timor Est, una colonia portoghese in Indonesia, si sta per aprire un nuovo scontro. Ascoltiamo le osservazioni di David Newson, ambasciatore americano in Indonesia, e del giornalista Christopher Hitchens di Costantino Pinto, leader della resistenza timor-est dell'agente della CIA, Philip Liechti. Timor-est sta lottando per l'indipendenza dal Portogallo. Da tempo Kissinger è informato della crescente popolarità nell'isola di un movimento di sinistra chiamato Fretilin. In quel periodo i militari indonesiani erano preoccupati per il formarsi di un'entità indipendente su una parte di una delle loro isole, così fortemente influenzata dai comunisti cinesi. All'epoca del viaggio di Kissinger, gli indonesiani credo che avessero già deciso che i negoziati con il Portogallo non avrebbero prodotto risultati e che quindi si doveva passare direttamente all'azione militare. Il regime indonesiano pensò che la cosa migliore fosse occupare e annettere il territorio e la popolazione di Timor-Est. Prepararono un piano di invasione e attuarono un vero e proprio genocidio della popolazione locale. Pochi sanno però che il giorno in cui fu decisa l'invasione, Henry Kissinger era seduto al fianco del capo di Stato maggiore indonesiano. Buonasera da Jakarta, Indonesia. L'ultima tappa del viaggio in Asia del presidente Ford. 5 dicembre 1975. Gerald Ford ed Henry Kissinger arrivano in Indonesia per un incontro con il presidente Suharto. La giornata del presidente in Indonesia sarà occupata da cerimonie ufficiali. Ford e Kissinger intendono rafforzare il legame con l'Indonesia, un alleato anticomunista fra Australia e Vietnam, in uno snodo cruciale per il controllo degli oceani. Quel viaggio non riguardava solo la politica sulla Cina e la sicurezza del sud-est asiatico. L'Indonesia è un importante produttore di petrolio e di carbone, due motivi più che sufficienti per avere buoni rapporti. Il dottor Kissinger e il presidente Ford si incontrarono con il presidente Suharto. Io ero presente a quell'incontro. Molti lo hanno interpretato come un via libera di Kissinger alla successiva invasione indonesiana dell'isola di Timor. Ma in un intervento militare sarebbero state impiegate quelle armi vendute dagli Stati Uniti solo per scopi difensivi. Il 6 dicembre, al termine della visita di Ford e Kissinger, i preparativi per l'invasione sono già iniziati. Perché? La gente di Timor-Est si chiede perché gli indonesiani ci invadono. Se credono che il Fretilin sia comunista, perché non mandano una delegazione a Dili per accertarsene? E perché gli australiani non ci aiutano? Quando i giapponesi ci invasero, ci aiutarono. E perché i portoghesi ci abbandonano? Siamo ancora una colonia portoghese. Chi pagherà per la distruzione delle nostre case? Il giorno dopo l'invio di questo servizio, Greg Shackleton viene ucciso a Timor-Est. Assistevamo al massacro di migliaia di persone. Eravamo sottoposti ad attacchi continui da parte dell'esercito indonesiano, dal cielo, dal mare e da terra. Nessuna telecamera riprende l'invasione. Una trasmissione radio dalla sede della Croce Rossa è l'unica testimonianza di quelle ore terribili. Ci fu detto all'aeroporto, al momento di lasciare Jakarta, che quel giorno stesso, il successivo, avrebbero invaso Timor-Est. Non voglio mettere in discussione l'esattezza delle memorie di Kissinger, ma durante l'incontro con il presidente indonesiano se ne parlò. Per quanto ricordo, Suharto fu piuttosto esplicito. Dopo che per mesi si era tentato di trovare una soluzione attraverso i negoziati, gli indonesiani sentivano di dover agire. Una settimana dopo questa intervista viene resa nota la trascrizione dell'incontro con Suharto. Vorrei parlarle, signor Presidente, di un altro problema, Timor. Vogliamo che comprenda quanto riteniamo sia necessaria un'azione rapida e drastica. Comprendiamo. Noi non faremo pressioni sulla questione. Comprendiamo il vostro problema e le vostre intenzioni. Potete immaginare come l'uso di armi di produzione americana ci creerà problemi. Dobbiamo stabilire se si tratta di un'operazione di autodifesa o di guerra. In ogni caso è importante che risolviate tutto rapidamente. Se accadrà dopo il nostro ritorno in patria, saremo in grado di influire sulle reazioni in America. I soldati indonesiani ammassavano la gente nelle scuole e poi davano fuoco agli edifici. Sparavano su chiunque cercasse di fuggire. Altri venivano bruciati vivi. Altri ancora venivano ammucchiati nei campi e uccisi con le mitragliatrici o inseguiti nelle montagne. L'intero paese era diventato un poligono di tiro. Dal punto di vista dei rapporti con la comunità internazionale, gli indonesiani non seppero gestire la crisi. Ma la nostra azione era limitata. La cosa era vista nell'ottica del 1975-76, in pieno post-Vietnam. Quel paese era molto importante per noi. Successe nell'anno in cui il sud-est asiatico e l'Indocina erano al collasso. Non si trattava di approvare o meno, semplicemente non potevamo fare nulla. Sarebbe difficile sostenere che l'Indonesia fosse minacciata di invasione da Timor-Est. Mentre Kissinger era ancora in volo, il Dipartimento di Stato prese una posizione. Era una questione di legalità. Dovevano ammettere che il Congresso poteva tagliare le forniture di armi in caso di aperta violazione. Appena rientrato dall'Indonesia, Kissinger radunò i funzionari nel suo ufficio e fece una sfuriata. Qualcuno non la passerà liscia per la condotta del Dipartimento in mia assenza. E questo telegramma su Timor-Est arriverà al Congresso, ci saranno interpellanze e si dirà che Kissinger ha prevaricato i suoi degnissimi funzionari, violando la legge. Si riferiva alla legge sul controllo delle esportazioni di armi e sull'assistenza ai paesi stranieri, approvata dal Congresso, che limita la vendita di armi americane a scopi esclusivamente di difesa. E prevenire uno Stato comunista nel cuore dell'Indonesia non è autodifesa? Beh. Stai dicendo che non potevano usare le armi per difesa? No, potevano usarle per difendere l'Indonesia. Conosco la legge, ma come difendiamo gli interessi americani? Dando un calcio sui denti agli indonesiani? L'incontro si conclude con una discussione su come sviare le indagini del Congresso sulla vendita di armi, vendita che sarebbe comunque ripresa dopo una breve pausa. In una seconda riunione, un collaboratore di Kissinger confermerà il ripristino di normali relazioni con l'Indonesia. Kissinger commenta: non molto volentieri, in modo illegale, ma perfetto. Mandiamo al successivo capo d'accusa nei confronti di Kissinger, il Cile. Ascoltiamo Edward Corey, ambasciatore americano in Cile, poi il giornalista Seymour Hirst e ancora Christopher Hitchens. Negli anni 60 il Cile diventa terreno di conquista delle grandi imprese americane, la AT&T che controlla l'industria del rame e la Pepsi-Cola. All'inizio degli anni 70 questi due colossi guardano con preoccupazione agli sviluppi politici in Cile. In Cile sono imminenti le elezioni presidenziali. Il candidato della sinistra, Salvador Allende, conquista un consenso sempre più vasto. A preoccupare sono soprattutto i suoi legami con Fidel Castro. Allende era a tutti gli effetti un portavoce di Castro. Nel suo programma elettorale affermava che avrebbe rifiutato qualsiasi aiuto americano. Non perdeva occasione per inveire contro il capitalismo americano, per affermare che gli Stati Uniti non erano una democrazia, mentre l'Unione Sovietica sì. Allende vuole nazionalizzare l'industria cilena del rame, una minaccia per gli interessi della AT&T e di altre società americane. Se le cose in Cile fossero andate a posto, Nixon si sarebbe assicurato massicci finanziamenti per le campagne del 71 e del 72. Così il Cile divenne il problema centrale per la sicurezza nazionale. 4 settembre 1970. Allende ottiene la maggioranza alle elezioni. La sua vittoria sarà poi ratificata dal Parlamento cileno. Per la CIA, un Cile guidato da Allende non sarebbe una minaccia per gli Stati Uniti. Tuttavia Nixon considera la prospettiva inaccettabile. Come consigliere di Richard Nixon, Kissinger seguì la regola di Machiavelli: adulare e assecondare il potente per avere successo. Kissinger non tarderà ad esprimere il suo punto di vista. Perché restare a guardare un paese che scivola verso il comunismo per colpa dell'irresponsabilità del suo popolo? Pochi giorni dopo l'elezione di Allende, Nixon e Kissinger incontrano il capo della CIA, Richard Helms. Da alcuni appunti di Helms si saprà di un piano contro Allende. Nessuna preoccupazione per i rischi, si legge. Nessun coinvolgimento dell'ambasciata. Fornitura di 10 milioni di dollari o più. Una nota interna della CIA, datata 16 settembre 1970, riassume la linea seguita dai servizi segreti con la supervisione del segretario di Stato. Kissinger chiede a Helms che venga riferito a lui ogni dettaglio dell'operazione. All'insaputa del Dipartimento di Stato, di quello della Difesa e dell'ambasciata americana in Cile, il piano prevede un'azione sotto copertura, chiamata Track 2. In un incontro con Haig e altri collaboratori, Kissinger sottolinea l'esigenza di un'azione drastica per intimidire i cileni. Cercavo di far capire a Kissinger la mia crescente preoccupazione che qualunque tentativo potesse essere destinato al più totale fallimento. I militari cileni non erano affatto disponibili. Allende si sarebbe insediato, non si poteva fare nulla. Kissinger non tenne conto di queste obiezioni e fece pressioni sulla CIA perché si procedesse con il piano per fomentare il golpe. Il terzo telegramma che inviai fu quello che mise Kissinger veramente in agitazione. Dicevo esplicitamente che l'avventura poteva ritorcersi contro gli Stati Uniti e personalmente contro il presidente, peggio della baia dei porci. Appena lo ricevettero, mi richiamarono subito negli Stati Uniti. Pensavano che fossi stato informato del piano. Volai a Washington. Il presidente mi accolse cordialmente. Poi si lanciò in una requisitoria contro Allende. Continuava a picchiare il pugno così, diceva che lo avrebbe schiacciato economicamente, lo chiamava bastardo, figlio di, voleva distruggerlo. Gli Stati Uniti, insomma, sono sempre più nervosi. Quell'uomo, Salvatore Allende, è una minaccia concreta per gli interessi americani in Sud America. E proprio mentre Allende sta per insediarsi, si diffondono le prime voci di un golpe in Cile. Il comandante dell'esercito cileno, René Schneider, dichiara subito che resterà fedele al presidente Allende eletto democraticamente, ma Schneider non sa che la CIA ha già arruolato molti dei suoi ufficiali. Mio padre era una persona molto mite, una persona molto sincera. Quando diceva una cosa, la faceva. La Costituzione affermava che il presidente del Cile doveva essere eletto dal Congresso. E questo non era accettato da alcuni settori, che cominciarono ad attaccarlo. A Santiago, la CIA organizza un piano per rapire Schneider. Volevano spingere i militari a dichiarare la legge marziale e a invalidare le elezioni. Il direttore della CIA a Santiago invia il seguente telegramma a Washington. Il generale Schneider è il principale ostacolo ai piani di rovesciamento. La risposta di Washington: costanti pressioni dalla Casa Bianca, sempre più importante eliminarlo. Fu deciso che Schneider doveva sparire. Per questo compito vennero assoldati uomini con provata esperienza criminale. Furono dotati di armi ad alta precisione, arrivate nella valigia diplomatica. Un comunicato della CIA con codice Track 2 conferma che i piani contro Schneider stanno procedendo. Si richiedono dalle 8 alle 10 granate lacrimogene e 3 mitragliatori calibro 45 con caricatori da 500 proiettili. Verso la fine di settembre del 1970, Weinert, l'incaricato militare dell'ambasciata americana, riceve l'ordine di lavorare direttamente con la CIA a Santiago. Grazie alla comune passione per i cavalli, Weinert è entrato in confidenza con molti alti ufficiali cileni. È il tramite ideale. Dalla base della CIA, Weinert riceve denaro contante per pagare gli avversari di Allende. Non potevo tenere il denaro nella cassaforte del mio ufficio. Lo legai con degli elastici e lo misi negli stivali da equitazione. Li toccavo soltanto io. Era il posto migliore dove tenerlo. 15 ottobre 1970. Kissinger viene informato che il tentativo di rapire Snyder è fallito. Ai vertici della CIA esprime la sua preoccupazione. Al momento il piano non sta procedendo. Nelle sue memorie, Kissinger scriverà che aveva deciso di annullare il piano Track 2. Ma il giorno dopo, la CIA invia in Cile il seguente telegramma. La politica per rovesciare Allende con un colpo di Stato è confermata e sta procedendo. È imperativo che queste azioni vengano messe in atto clandestinamente per tenere nascosto l'intervento del governo degli Stati Uniti. Secondo quanto scrive Kissinger nelle sue memorie, il piano per rovesciare Allende è stato annullato il 15 ottobre del 70, ma invece per la CIA il progetto è confermato e passa attraverso il rapimento del generale Snyder. Ma è possibile che la CIA agisca senza che Kissinger ne sia informato? È il 22 ottobre del 70. Mio padre uscì di casa intorno alle 8 della mattina, in auto, accompagnato solo dal suo autista. Si avvicinarono all'incrocio tra la Martinez Zamora e la Amerigo Vespucci. L'auto fu circondata da altre vetture, gli bloccarono la strada. Da una jeep accostata sull'altro lato uscirono degli uomini, ruppero il parabrezza con una mazza e spararono dentro l'auto una serie di colpi. Alla commissione Church, i dirigenti della CIA testimonieranno che Kissinger è stato costantemente informato del caso Snyder, anche dopo il 15 ottobre. 19 ottobre 70. Secondo la versione della CIA, il vice di Kissinger, Alexander Haig, viene informato dai servizi segreti sugli sviluppi dei piani. Sempre secondo la CIA, il 20 ottobre, 5 giorni dopo la presunta sospensione del piano Track 2, Kissinger chiede di essere aggiornato su Snyder. Forse è impossibile sapere cosa sia accaduto precisamente. Eppure è difficile credere che il 19 ottobre la CIA abbia inviato in Cile delle armi prive di numero di serie, senza un'autorizzazione. L'omicidio del generale Snyder, anche se non esistono prove del coinvolgimento degli Stati Uniti, sarà il preludio per il colpo di Stato contro Allende, che l'11 settembre del 73 permetterà a Pinochet di prendere il potere. E di questo Kissinger per molti sarà ritenuto diretto responsabile. Credo che Henry Kissinger fosse a capo di questa cospirazione che vedeva mio padre come un ostacolo, come un insetto che dava fastidio. Ma quell'insetto era mio padre. L'11 settembre 2001, il Washington Post annuncia che René Snyder Jr. ha citato in giudizio Henry Kissinger per la morte del padre. La notizia sarebbe stata oscurata dagli eventi di quella tragica mattina. Che Kissinger sia colpevole o no di crimini contro l'umanità, il suo caso solleva interrogativi sulla punibilità dei governanti, su come il passato condizioni il presente e sulla giustizia internazionale. Kissinger non sarà mai processato per i suoi presunti coinvolgimenti. L'istituzione di una corte internazionale per i delitti contro l'umanità, che ha raccolto le firme di 139 nazioni, non è stata sottoscritta dagli Stati Uniti d'America.